Pensa al tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni brutti e che ti capitino anni dei quali tu dica che non ti piacciono. Prima che si ottenebrino il sole e la luce, la luna e le stelle, prima che tornino le nubi dopo il temporale, nei giorni in cui vacilleranno i guardiani di casa, si curveranno gli uomini robusti, smetteranno il lavoro quelle che macinano perché fatte poche, caleranno le tenebre su quelle che guardano attraverso le finestre, si chiuderanno i battenti che danno sulla via. Quando si abbasserà il rumore della mola, languirà il gorgheggio dell'uccello e scompariranno tutte le figlie del canto, allora si avrà paura delle salite e degli spauracchi della strada. Quando fiorirà il mandorlo, si muoverà lenta la locusta, sarà messo da parte il cappero, perché l'uomo se ne va alla sua dimora eterna, mentre i lamentatori alzano le loro grida nella via. Prima che si tronchi il filo d'argento, si rompa la sfera d'oro, si frantumi la brocca sulla fonte, si spacchi la carrucola per finire nel pozzo. Allora la polvere torna alla terra da dove è venuta, e il soffio vitale torna a Dio che lo ha dato. «O vanità immensa», ha detto Coelet, «tutto è vanità». Coelet, oltre ad essere sapiente lui, insegnò anche la scienza al popolo. Ascoltò, meditò, scrisse molte massime. Coelet si studiò di trovare parole piacevoli e scrisse la verità onestamente. Le parole dei sapienti sono come pungoli, come chiodi ben piantati sono le raccolte delle loro sentenze. Le une e le altre vengono dallo stesso pastore. Da ciò che va al di là di questo punto, figlio mio, sta in guardia. Scrivere molti libri non si finirebbe mai, e il molto studio logora l'uomo. Fine del discorso. Si è già sentito tutto. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché l'uomo è tutto qui. Dio giudica ogni azione, anche ciò che è nascosto, sia buono che cattivo.